E si torna in diretta dagli studi di Via Zanardi per Radio Città Fujiko. Partiamo subito con In Scena, la rubrica del venerdì. Abbiamo poi il Last Minute esteso quest'oggi, che sarà letterario, per portare una presentazione alla quale teniamo in maniera molto molto particolare. Intanto, per quanto riguarda la rassegna, cominciano le rassegne, anche seppur tra qualche giorno, ne è già stata data presentazione all'aperto. Primavera 2024 sarà per una serata, ma ne parleremo con due voci, con Mattia Gandini, direttore artistico di Leggere Strutture Art Factory, e Piero Ferrarini, è il direttore artistico del Teatro Deon. Parliamo di Crudo, che è giunto alla terza edizione del Festival di Danza Contemporanea e Performing Art, e a cura di Leggere Strutture Art Factory, che si svolgerà dal 10 al 18 aprile tra Teatro Deon, e una serata, come vi ho detto, al Parco 11 settembre, ovviamente a Bologna. Ne è stata data una presentazione ieri in conferenza stampa. Per quanto riguarda la collaborazione con il Teatro Deon per Leggere Strutture Art Factory, ho iniziato contattando appunto il direttore artistico del Teatro Deon, che è Piero Ferrarini. Sentiamo allora le sue parole in conversazione per anticipare la rassegna Crudo Festival. La rassegna Crudo, la collaborazione con Teatro Deon, con noi il direttore Piero Ferrarini, che saluto. Bentornato sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Grazie, grazie mille. Iniziamo questa conversazione parlando dell'intersezione Crudo Deon. È una collaborazione che va avanti ormai da anni, che prosegue ormai da anni, della quale noi siamo molto orgogliosi. È un'occasione nuova per proporre comunque al pubblico del Teatro Deon, al pubblico di Bologna più in generale, qualche cosa che, diciamo, esula un po' da quello che è la programmazione teatrale, diciamo così, classica, quindi dalla programmazione di prosa, dalla stand-up comedy, dalla programmazione, diciamo, che si ritrova più usualmente all'interno di un teatro. È un festival di performing art, di, diciamo così, d'arte coreutica, che però comprende poi, specialmente a partire da quest'anno, una serie di altre iniziative diversificate. Quest'anno, per esempio, vedo che l'enfasi è data anche alla musica, e ci sono aspetti diversi, abbiamo degli ospiti importanti, Guglielmo Pagnozzi, Valentino Corvino, che ricordo peraltro è già stato nostro ospite allo scorso gennaio insieme a Valentina Lodovini, ha presentato uno spettacolo su Anna Politkovskaya, la giornalista russa martire dell'informazione, possiamo dire, un argomento purtroppo di grande attualità. Il festival, come sempre, è articolato in una serie di giornate, quindi una serie di appuntamenti diversi tra di loro, con proposte varie, appunto, comprendono in parte musica dal vivo naturalmente, e naturalmente una parte performativa più legata al movimento e all'arte coreutica. Il risultato, l'interesse che ha destato anche nelle scorse edizioni, per quello che sono state le scorse edizioni, è stato considerevole. Abbiamo avuto ospiti importanti, ricordo Carlo Massari, ricordo Yotam Peled, un danzatore israeliano bravissimo, l'ho trovato straordinario. È un'iniziativa che intendiamo far vivere, far continuare anche nei prossimi anni, speriamo possa avere anche molte altre edizioni. L'interesse delle istituzioni, vedo, c'è, quest'anno voglio dire, c'è il Comune di Bologna, il quartiere Naville, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna a sostenere questa iniziativa, non può, diciamo così, che far piacere, fa capire che comunque c'è un interesse della città, c'è un interesse anche di soggetti privati, c'è un interesse della collettività verso una forma nuova di espressione. Thank you.

manifestazione, la collaborazione con il Teatro Odeon, ricordo che è dal 10 al 18 aprile. A brevissimo continueremo la nostra rubrica in mostra, intanto un piccolo stacco brevissimo musicale, pubblicità e poi si torna subito in diretta, in scena, venerdì 5 aprile 2024, la prima vigilia di weekend per il quarto mese del 2024. A tra poco.